In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Oggi è il 2 di marzo 2012, buongiorno a tutti da Francesco Puglisi. Inizia Slalom, una trasmissione che darà compagnia fino alle ore 13. www.crmhappyradio.it, da dove lì potete richiedere le vostre canzoni che più preferite e fare anche le vostre dediche. Inoltre avete a disposizione anche i nostri numeri telefonici, che sono al 335 56 37 251 oppure lo 0921 92 32 92. Abbiamo iniziato la trasmissione ancora prima degli spot pubblicitari e soprattutto anche del news locale, facendovi ascoltare una bella canzone di Lucio Dalla. È un piccolo omaggio importante per noi che facciamo radio e quindi che siamo nell'ambiente musicale, ricordarci di questo personaggio veramente importante che ha dato un segno alla musica di casa nostra. Io ho un aneddoto particolare. Circa 20 anni fa mi trovavo a Bologna per dei campionari di lavoro e un mio collega mi portò a mangiare in un ristorante che si chiama Napoleone, un ristorante pizzeria proprio in centro a Bologna, e mi disse: qui spesso viene a mangiare Lucio Dalla. Nemmeno l'amico mio aveva finito di parlare ed entrò all'interno di questo locale Lucio Dalla, accompagnato da tante persone. Ma la cosa carina, ed è un aneddoto veramente delizioso, però per sottolineare lo spessore di equità che aveva questo cantante, che io mi sono avvicinato, ero in compagnia di altre persone e lui ci ha rilasciato, abbiamo scambiato due parole e senza nessuna difficoltà non ha mantenuto quella distanza che spesso troviamo in tanti cantanti. Ciao Lucio, ci ricorderemo sempre di te. Nani, nani, nani, ti ho scovato dentro ad un sentiero, ma non sono stato mai sincero. Nani, nani, nani, prima e dopo tanti come me a cercare il mondo che non c'è. Nani, nani, questo bosco ormai è il tuo stesso odore, di una bocca senza il suo sapore. Nani, nani, nani, 20 euro di verginità, quegli al padrone, la mia che resta qua. Dimmi perché tu ami sempre gli altri ed io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando ti ho detto vieni via con me. Nani, nani, nani, piove ma non ti puoi riparare, c'è un camionista da accontentare. Nani, noi siamo dentro un mondo senza eroi. Dimmi perché tu ami sempre gli altri e io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando t'ho detto vieni via con me. Potrei star giorni ad annusare il tuo mestiere anche con me, potrai sposarmi anche se non mi amassi e capirei il perché. Dimmi perché tu ami sempre gli altri e io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando t'ho detto vieni via con me. Vieni via con me. Vieni. Slalom. Flashback. Sera con Rock Revolution e con i fratelli Simone e Filippo Brancato. Oggi è il 2 marzo, come già detto prima, si festeggiano i compleanni di cantanti abbastanza importanti, fra le altre cose nell'ambito della musica rock, come quella che abbiamo sentito questa mattina, firmata Boston e intitolata proprio Amanda. Nel 1962 nasceva John Bon Jovi, che di origine è siciliano perché in America si chiama così, ma lui originariamente è Bon Giovanni. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Un sorriso di ritorno per rispondere a un sorriso. Bastava uno spazio condiviso, ma nessun altare d'oro. Bastava la stanza di un albergo d'Europa. Si potrebbe andare avanti a parlare o si gioca, o scambiamoci uno schiaffo di pace, di

bruciare. Sento che stai precipitando dentro la mia disperazione, che laggiù la pace ancora non c'è, che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare, non so più cosa c'è, non so più cosa fare, non so più cosa c'è, non so più dove sono, senza te non si sa, non so più galleggiare. Mi fa schifo anche il mare. Sento che stai precipitando. Cosa serve? Dentro un acquario senza pesci. Cosa faccio? Mentre una radio sta annunciando. Cosa serve? Che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare. Il 2 marzo del 98 la sonda Galileo conferma la presenza di acqua su Europa, una delle lune del pianeta Giove, si trova sotto uno spesso strato di ghiaccio. Poi cosa abbiamo di importante? Che i Police nell'84 si sciolgono e quindi fanno l'ultimo concerto e poi cominciano le carriere separate. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. On the blind side and on the back ways, the world's so sad and small. When you can't get what you need, you feel like taking a toss to it all. The sweat's off, make a better man, you can feel the darkness rise. Sometimes you don't know what you're fighting for, you don't know who it is in the spies. I am the hallelujah man. Break all the rules, I'm the king of moves, I'm the renegade in this great time. I'll do what I think to bring a government down. I am the hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep by the shepherd's feet. I'll do what I think to bring a government down. Star-spangled Cadillac, he picked up a rodeo queen with whiplash marks all over his back. When dreams don't become the people, people become their dreams. He didn't understand at the time, but now he knows exactly what it means. I am the hallelujah man. Break all the rules, I'm the king of fools. I'm the renegade of this great town. I'll do anything to bring a government down. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep, while the shepherds sleep. I'll do what I think to bring a government down. The sinner, watch out for it, be careful where you tread. You're throwing away all that beautiful bread. I slipped outside till the world opened up. I got to understand, he's a hallelujah man. I said, I'm the hallelujah man. To bring a government down. I am the hallelujah man. Yes, my friend. Slalom. Flashback. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Se questa strada, se questa strada, la curva al jazz e la curva al su, è questa strada che la rampega, quella dei nori e di Beneu. Sono sta lontan per troppi anni, ho laura e mai avuto cos, e questa schiena è tartaruga, su questa strada la porti a ca. La nos le fregia, la nos le scura, ma una fiammata la sbranerà, mi la bucer come autoscontri e anche il zeppel bruserà. E questa sera che più è una lingua, che più è una faccia, che più è un mestè, tu ma un vestì, una bottiglia e questa maschera de legno. Da calavara onda, curiando lì contro i pensè, intanto il brutto d'onda e il bel va. pave del Boutage, denanz del mascheron, subit dopo la segurità, de trei du sapeur, tu malla cioccia la parlerà. Ai cabul della tua vita, te che pensere tu man, poverne a scappa del carneval de Schiglian. Tutto il paese elga per la porta e ogni porta la cade in quai ven, che più veloci, che più campana, solo bronze, petardi e sciop, e questa maschera che me scunt, la tegni fissa, la molli mai, l'unica faccia che gola è questa, perché quell'oltre soffiando è le. La vedi rit, le rispusa dalla par contenta, la trovi be, chi sai fieu, se si investì, se galla maschera anche in EU, che vo visen, la branchiscia, per tri minuti la fo balà, mi se una maschera cambia faccia, anche se suta che non che piange, taca la vara onda, curriandoli contro i pensè, intanto il brutel d'unda, e il bel fave del butage. Denanz che il mascheron, subit dopo la segurità, le tre di du saper, tu ma la gioia la parlerà. Ai gabul della tua vita, te che pensere tu man, potermi a scappare del carneval de Schiglian. Su questa strada, una curva al jazz e una curva al su, le questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu, torni lontan, un oltro an, voilà urra e mai a feticos, e questa maschera è intagliata, anche stasera, la porti a ca. Slalom, flashback. I've got two strong arms. Tra curiosità, idee e buona musica. Slalom. Flashback. Let's do it. è molto simile alla Kensington and the Sunshine Band, ma lui è Jimmy Bohorn. Negli anni 70 impazziva nelle varie discoteche di tutto il mondo. Non so se molti di voi ieri sera hanno avuto l'opportunità di vedere Servizio Pubblico, che è stata in gran parte dedicata alla vicenda dei No Tav. Ospiti in studio c'era anche Pierluigi Bersani, segretario nazionale del Partito Democratico, Maurizio Landini della FIAM. Alla trasmissione hanno partecipato anche i No Tav in collegamento dalla Val di Susa ed una serie di tecnici che in studio hanno spiegato il perché la Tav non è un investimento fruttuoso. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica.

mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. L'altro giorno avevamo parlato della Laura Maggi, la barista avvenente che era balzata subito alle cronache per il suo abbigliamento un po' osè nei confronti dei clienti. Questa volta invece viene presa di mira perché è stata processata per guida in stato di ebbrezza. Infatti la donna è stata pizzicata dalle forze dell'ordine praticamente qualche anno fa mentre guidava in stato proprio di ebbrezza, o almeno così ha certificato il controllo fatto dagli agenti. Vi ricordo che questa è CRM Happy Radio, questa è Slalom, salutiamo i nostri cari amici che durante la notte ci seguono, infatti la trasmissione viene replicata a partire da mezzanotte. Vi ricordo anche che potete fare le vostre dediche richieste direttamente dal nostro sito internet che è www.crmhappyradio.it. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. I've drawn the sun and I'm glad I'm moving on. Yeah, I'm lost in unreturning time. Let the winter chill my prime, but I'm done and moving on. Looking back can help you through, but I wonder if that's true. Fatto il giro del web un bacio tra gay, tra Marin e il suo compagno, tra un Banin e il suo compagno, e quindi il web festeggia la fine del Don't Ask Don't Tell, che il significa non chiedere non dire, che per anni è stata la politica delle forze militari statunitense nei confronti degli omosessuali. Arisa adesso la sentiamo con La Notte. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresto.

Tra curiosità, idee e buona musica. Next time I'll be braver, I'll be my own savior.

marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine, tutto il cielo si riflette nel mio occhio. Le montagne che dividono i destini si frantumano, diventano di sabbia. Al passaggio di un momento di splendore che spalanca la porta della gabbia. Vedo gli occhi di una donna che io amo e non sento più il bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata e non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. Me lo stelle che cadono. Al termine dell'ultimo concerto, che l'ha visto esibirsi per 2 ore sul palco di Torino carico di entusiasmo e grinta, Giovanotti non aveva evidentemente esaurito le sue energie, così durante il backstage in compagnia della sua band di collaboratori e musicisti ha ideato una nuova canzoncina accompagnata anche da un simpatico balletto. Il video amatoriale della nuova danza, chiamata appunto Tweet Dance, è stato poco dopo pubblicato su Twitter ed ha riscosso subito un grande successo. È risaputo che Lorenzo ama interagire con le sue fans tramite i vari social network, comunicando emozioni, pensieri, ma anche per condividere video. Di 4 anni dall'ultimo album Heart Candy, Madonna ha annunciato il suo ritorno con un nuovo album di inediti intitolato MDNA, un mix di energia che metterà addosso la voglia di muoversi, ha dichiarato la cantante. La pubblicazione del nuovo album è previsto per il prossimo 26 marzo, ma nell'attesa l'artista ha lanciato il suo primo estratto da questo album, che è quello che abbiamo sentito questa mattina, per il quale ha collaborato anche con Mia, Nick May e Martin Solveig. La vedremo protagonista anche di numerose esibizioni live. Brava Madonna. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down.

tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. I gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder. Da invidiare della esecuzione fatta da Maria Chiara, che ci fa ricordare un po' il passato con questa bella canzone che era stata firmata negli anni 80 dai Foreign. Dopo la grande gioia per essere diventata mamma della piccola Blue Eye, la cara Beyoncé, che per gli amanti del R&B, ecco il nuovo singolo che noi già sentiamo in sottofondo e che si intitola End of the Time. I'll be a baby, I promise not to leave. Allora, per gli amanti del genere R&B, sicuramente questo è uno dei pezzi più belli. E che vogliamo dire, Beyoncé è una bellissima donna, questa texana che ha avuto questa storia d'amore, che ha questa storia d'amore con il rapper Jay-Z, che ha avuto comunque frutto una bellissima bambina che vediamo, che si chiama Blue Ivy, è proprio frutto di questo amore. Quest'oggi abbiamo voluto ascoltare questa canzone che dà un po' il tocco nuovo di originalità, ma soprattutto di vivacità alla musica di Beyoncé. Vi ricordo che questa è CRM Happy Radio, stiamo quasi al termine della trasmissione Slano, una trasmissione che ci ha visto insieme da partire dalle ore 10 fino a, intorno alle 12.55. Noi continueremo ancora con la musica, lo facciamo adesso, lo sentiamo già in sottofondo. Che vogliamo dire? Di tanto in tanto diciamo le cosine non vanno come vorremmo, perché magari siamo un attimino distratti. 0921 92 32 92, il nostro numero telefonico. Standing in a line, wonder why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can be the love. They watch us open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love. Le sorprese non finiscono mai, infatti alla vigilia della serata di apertura del 62esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, su cantanti e quindi e canzoni che avrebbero potuto partecipare e che non hanno partecipato, e la volta è proprio di Vasco Rossi, il quale afferma di avere scritto una canzone per Parti Bravo per esaltare la serie sul palco dell'Ariston anche quest'anno, e che invece è stata scartata. La canzone era stata anche arrangiata in maniera, scrivono qui, egregiamente anche da Gaetano Corrieri. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Che batte più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala, con l'anima che si pente, metà e metà,

quasi in conclusione di trasmissione anche per oggi. Che bello, ora andiamo a casa e tengate il Cifride, grazie a Dio è venerdì. Ma prima di concludere volevo farvi ascoltare una bella canzone firmata Litfiba, che dopo 13 anni quindi ritornano insieme e sono pronti a giurare fedeltà eterna. Stiamo parlando proprio di Piero Pelù e Kigo Renzulli, che insieme a loro torna anche nel background musicale anche il buon rock italiano con un nuovo disco dal titolo Grande Nazione. Noi adesso invece andremo a sentire M'abituerò. Sulle prime note di questa canzone Francesco Paglisi vi saluta, vi ringrazia dell'appuntamento, vi auguro ora buona vita a tutti e se il buon Dio lo vorrà noi ci sentiremo lunedì sempre su CRM Happy Radio, la radio che oltre a vedere potete anche sentire. Vi dico buon fine settimana e come dicono gli americani, tengate It's Friday. Il Litfiba con M'abituerò. M'abituerò a non trovarti, m'abituerò a voltarmi e non ci sarai. M'abituerò a non pensarti quasi mai, quasi mai, quasi mai. Alla fine c'è sempre uno strappo e c'è qualcuno che ha strappato di più. Non è mai qualcosa di esatto, chi ha dato e poi chi ha preso tutto quel che c'era.